Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa puntata, di questa giornata economico-finanziaria. Beh, partiamo subito con un po' di ottimismo e di allegria, si fa per dire, ma insomma, lo spread, la differenza tra quanto costa noi indebitarci come Stato italiano e quanto invece non costi alla Germania, è sceso per la prima volta da sotto i 300 punti, anzi è sceso a 292 punti base. È la prima volta dal 21 marzo ed obiettivamente questa sembra una tendenza, non vale solo per lo spread italiano, ci mancherebbe, dovuta da un lato alle dichiarazioni che si sono avute nel fine settimana. Ricordavamo venerdì il ministro delle finanze Schäuble parlando al Parlamento tedesco, chiaramente lui, pur essendo un falco, ha detto la Grecia non può uscire dall'euro, sarebbe a rischio l'euro stesso, e poi ha aggiunto i tedeschi hanno indubbi vantaggi e sono tra quelli che hanno i maggiori vantaggi dall'esistenza dell'euro. Ieri un'intervista pubblicata anche dal Corriere della Sera di Angela Merkel ribadiva lo stesso concetto: la Germania sta beneficiando dell'euro, la Grecia si è messa sulla giusta carreggiata, non è pensabile che esca dall'euro. Allora, la maggior determinazione tedesca su questo, unita al fatto che oggi la Grecia ha varato l'Eurogruppo dovrà valutarla oggi, ma ha detto di essere pronta a riacquistare fino a 10 miliardi di euro di propri titoli di Stato, il buyback si chiama in gergo, che è necessaria come operazione per poi ricevere gli aiuti internazionali, perché per ricevere gli aiuti internazionali occorre che la Grecia si ricompri 40 miliardi del debito in mano ai privati su un totale di 63 miliardi. La Grecia ha detto va bene, siamo pronti a riacquistarne intanto 10. Questo ha comportato un miglioramento di tutti gli spread e anche di quello italiano. In sostanza, poi ne parleremo più ampiamente, quello che appare evidente è che non è più di moda, se mi passa il termine, immaginare che l'euro finisca. Dalla Germania arrivano finalmente, loro dicono, perché la Grecia si è messa a fare i compiti, rassicurazioni che la Germania stessa ci tiene all'esistenza dell'euro. Secondo me pesano anche molti dati congiunturali che hanno visto in questi mesi rallentare bruscamente anche l'economia tedesca, visto che saranno fermate le economie della parte sud dell'euro, e quindi Spagna, Italia, anche Francia, oltre che chiaramente Grecia e Portogallo. Ma dicevo, la rassicurazione tedesca rende sempre meno probabile e sempre meno conveniente un attacco speculativo, cioè andare a scommettere che lo spread tornerà a 500 punti, che l'euro non terrà, unita all'iniziativa di luglio e del mese precedente di Mario Draghi. Il risultato è che lo spread è sceso appunto a 292 punti base. Il rendimento di un BTP a 10 anni italiano scende al 4,37%, questo vuol dire minor costi per l'Italia, che già paga circa 70 miliardi di euro all'anno di soli interessi sul suo debito, minor costi per l'Italia, e mi sembra che un gallo oggi ci possa andare. Poi partiamo con le notizie in breve. Gallo, un galletto almeno, che è il nostro antigufo. Le borse, bene Milano più 0,34% come Parigi e come Francoforte, Londra invariata, l'America meno 0,20%, euro a quota 1,3071, Mediaset più 6,5%, Unicredit più 2,30%, Ubibanca più 1,30%, Popolare Milano più 1,20%, Intesa più 1,1%, Generali più 0,80% come Impregilo, Enel più 0,60% come Mediobanca. non c'è oggi un grosso balzo delle banche, ma Unicredito e Ubibanca, Intesa e Popolare di Milano portano a casa qualcosa. C'era già stato venerdì scorso. Chi perde? ST Microelectronics -1,71 come Diasorin, Fiat -0,90, Buzzi Unicem -0,70 come A2A e Atlantia. L'oro sta a $1,720 in Asia, era calato abbastanza la settimana scorsa, il petrolio $89,58 al barile a New York. Eni ha fatto sapere oggi che è ripartita l'attività esplorativa, quindi di perforazione onshore nel territorio libico, il pozzo esplorativo vicino al bacino della Sirte a circa 300 km a sud di Bengasi. Già li commentavamo due settimane fa, ma dalla Cina, dopo numerosi segnali di raffreddamento, rallentamento dell'economia, stanno tornando, la cautela è d'obbligo, invece segnali di una ripresa dell'attività economica. L'indice PMI, che è appunto l'indice dei direttori, dei responsabili degli acquisti, che quello, chi deve fare gli acquisti è quello che poi fa un calcolo su quella che sarà l'attività economica dei mesi futuri, è considerato dovunque nel mondo l'indicatore forse più credibile dell'andamento dell'attività produttiva e manifatturiera. Quello registrato dalla HSBC, la Hong Kong Shanghai Banking Corporation, è salito al livello più alto da 13 mesi a questa parte, e questo secondo gli analisti potrebbe portare il PIL cinese ad attestarsi intorno all'8% nell'ultimo trimestre dell'anno contro il 7% dei trimestri precedenti. Vedo che c'è chi non è nemmeno contento del calo dello spread, dice il lavoro quando è che aumenta. Allora, lo abbiamo spiegato molte volte, nel momento in cui c'è una frenata o recessione brusca dell'economia, questa crisi è iniziata come crisi finanziaria, poi ha bloccato l'andamento economico vero e proprio, si blocca l'economia, dopo un po' iniziano anche a perdersi posti di lavoro. In aggiunta, nel 2011, quando sembrava che si potesse ripartire, vi è stato, per quello che riguarda l'Europa, il caso specifico del terrà o no l'euro, resterà la Grecia nell'euro, e questo ha fatto ripartire poi gli spread e anche ha fatto frenare l'attività economica, aumentando ulteriormente la disoccupazione, ne abbiamo parlato anche in questi giorni. Allora c'è un certo lasso di tempo tra quando riparte l'attività economica, e non è questo il caso, noi stiamo solo commentando il venir meno o comunque il ridursi delle opzioni speculative sul fatto che l'euro possa saltare per aria, ma dicevo, quando ripartirà l'attività economica ci vorrà ancora del tempo prima che poi tornino le assunzioni, perché inizialmente le imprese producono con quello che hanno, anche perché in molti casi i magazzini sono pieni, comunque poi dopo un po' questo si ripercuote anche sull'occupazione, ma è una cinghia di trasmissione abbastanza lenta. Dicevo dell'Eurogruppo che oggi valuterà l'operazione della Grecia di riacquistare parte del suo debito, ma intanto è polemica in Grecia perché l'ex premier socialista George Papandreou sarebbe uno dei 2000 greci che hanno un deposito nella banca HSBC di Ginevra in Svizzera. Vi sarebbe la madre, con un deposito di circa 550 milioni di euro. Il condizionale è d'obbligo, il conto risulta intestato ad una impiegata statale di nome Maria Panteli, ma dietro vi sarebbe la madre Margherita Papandreou. Nel frattempo la Germania ha fatto sapere che raggiungerà il pareggio di bilancio, quindi deficit pari a zero, già nel 2012, un risultato inatteso fino all'estate scorsa. In Spagna invece continua l'escalation del debito pubblico, 817 miliardi più 15% su base annua, e qui ha iniziato a pesare sul debito spagnolo i soldi che lo Stato spagnolo sta mettendo per salvare Bankia, insieme alle casse di risparmio ormai tecnicamente fallite per via dei mutui concessi a un mercato immobiliare in bolla che adesso è completamente sgonfiato. Lo Stato spagnolo ha già iniettato 4 miliardi e mezzo secondo le ultime previsioni, il debito spagnolo nel 2013 supererà per la prima volta nella sua storia il 100% del PIL. E Bruxelles fa sapere anche che il tasso di persone minacciate di esclusione sociale o povertà nel 2011 era salito a 119 milioni, ossia il 24% della popolazione contro il 23% nel 2008. Veniamo all'Italia, ma restiamo con la posizione europea, perché Bruxelles ha bocciato l'idea di prorogare di 30 anni le concessioni demaniali marittime, cioè gli stabilimenti balneari. Un rinnovo automatico, quello che vorrebbe il governo, che secondo molti ha subito le pressioni, il Parlamento soprattutto ha subito le pressioni dei gestori di stabilimenti balneari, domani ce ne occuperemo. Il rinnovo automatico, dicevo, di 30 anni non sarebbe compatibile con quanto prevede il diritto comunitario. La proposta di prorogare di 30 anni le concessioni degli stabilimenti balneari è stata inserita nell'ultima versione del decreto sviluppo. Faccio notare che spesso le concessioni sono date a prezzo bassissimo, cioè lo Stato le regala. Faccio notare che da una parte o dall'altra bisogna prenderla, perché insomma, se poi si vanno a vedere le dichiarazioni dei redditi, senza criminalizzare una categoria, ma obiettivamente sono bassissime per chi gestisce uno stabilimento balneare, e sappiamo tutti quelli che sono i costi, soprattutto in certe parti d'Italia, e quello che pagano a demanio è pochissimo. Ora io mi rendo conto di tutto, però voglio dire, è anche sbagliato con questo periodo delle vacche magre che lo Stato, tra virgolette, regali pezzi di territorio in concessione a prezzi bassissimi, e l'Europa vuole che vengano messe in concorrenza. In questo modo invece verrebbero rinnovate automaticamente per 30 anni, quindi io sarei per un'asta vera e propria, chi vuole, se un'asta a rialzo, in modo che chi vuole gestire uno stabilimento balneare offra e lo Stato incassi il più possibile, perché no? Conosco già l'obiezione, così poi la scaricherebbero gli esercenti. Beh, dipende, non è che uno possa aumentare i prezzi liberamente, perché abbiamo visto cosa è successo in altri settori del commercio. Non puoi scaricare, magari guadagni un po' di meno, non lo so. Nel frattempo ci occuperemo poi anche della vicenda SEA. La provincia di Milano vuole vendere e ha già avviato la gara per cedere la sua partecipazione, 160 milioni di euro di base d'asta. E, per quello che riguarda la cessione da parte del Comune di Milano di quasi il 30% dell'aeroporto di Milano al fondo F2I, quello di Gamberale, Pisapia, il sindaco, oggi ha detto: non siamo assolutamente pentiti, è stato uno dei migliori affari del decennio. Alle 18 avremo anche il dato sulle immatricolazioni auto. Faccio notare che secondo il centro studi Promotor, se dopo primavera con le elezioni arriverà una ripresa della fiducia anche in Italia, il mercato italiano delle auto potrebbe risalire a 1.550.000 unità. In questo momento siamo a oltre meno 40% rispetto alla vendita pre-crisi. E poi il vertice, allora, di spread, ma non solo, si è parlato anche nel vertice tra Italia e Francia a Lione, vertice molto blindato. L'oggetto dell'incontro era la realizzazione della TAV, l'alta velocità Torino-Lione, e appunto vertice a cui era presente anche il premier Mario Monti, il quale sullo spread, poi lo sentiremo, ha detto parole, diciamo, la strada è positiva, ma l'obiettivo è arrivare a 200, alla metà di quando lui prese in mano il governo, quindi da 560 a 287. E poi però il vertice, dicevo, molto blindato. Allora parliamo di questo, parliamo anche dell'accordo tra Italia e Francia, dell'incontro tra Mario Monti e Hollande, e anche delle loro prospettive verso l'Europa. 349-238-6666 per i vostri sms. Una sola nota: C'è già chi scrive, vabbè, allora le nostre spiagge verrebbero gestite da magnati russi e cinesi. A posto di una cosa, ma a me cosa interessa? Voglio dire, la cosa importante è che lo Stato incassi di più dalla gestione dei stabilimenti balneari e che le dichiarazioni dei redditi siano congrue, e quindi non quelle che abbiamo visto in giro, tra i 15.000 e i 18.000 euro l'anno di gestione. Dopodiché, siccome mi sembra che gli stabilimenti balneari non abbiano prezzi bassi, a me che non gestisca un italiano o un russo, abbiate pazienza, interessa quanto paga lo Stato e come ha gestito l'impianto. Trovo assurdo che in automatico per 30 anni, come previsto nella legge, il gestore dello stabilimento vede rinnovata in automatico la licenza per 30 anni, così, senza nessuna gara. Ma vogliamo mettere a gara questi stabilimenti balneari? Magari c'è qualcuno che è convinto di poterli pagare tanto per metterli in maggiore efficienza e produttività, magari invece non viene nessuno e lo stabilimento viene ridato a chi già ce l'aveva, che magari avrà un diritto di prelazione o comunque di offerta prioritaria, non lo so, ma mi sembra che come in tanti altri settori, cioè un ristorante se non va bene non è che gli rinnoviamo la licenza a 30 anni in automatico, chiude, vende, e la stessa cosa faremo anche per gli esercizi commerciali balneari. So che la lobby è molto potente in Parlamento e si è visto con l'ultima modifica del disegno di sviluppo, del decreto legge sviluppo, disegno di legge sviluppo. C'è chi scrive che l'affitto di uno stabilimento balneare, cioè il costo della concessione di uno stabilimento balneare è pari all'incasso di 2 giorni, scrivono alcuni ascoltatori in zona Maremma, non lo so, adesso vedremo anche i dati più aggiornati. Partiamo però con l'incontro Italia-Francia, 349-238-6666 per i vostri sms e invece Facebook per chi vuole scrivere attraverso internet. L'accordo sulla TAV confermato, presto sarà sottoposto al Parlamento, così il Premier Mario Monti da Lione. Non sarà difficile spiegare i benefici per l'Italia e per l'Europa. Quanto riguarda la Torino-Lione, c'è già stato un accordo intergovernativo del 30 gennaio 2012 sottoscritto dal Presidente Sarkozy e da me e dai rispettivi ministri. E quello sarà presto sottoposto alla ratificazione del Parlamento italiano per quanto ci riguarda. Personalmente, rimettendomi ovviamente alle decisioni sovrane del Parlamento, credo che non sia troppo difficile spiegare, l'abbiamo fatto di fronte a pubblici, il Ministro Passera, io e altri membri del Governo l'abbiamo fatto di fronte a pubblici meno pronti alla riflessione collettiva sull'interesse generale di quanto sia il Parlamento. Non credo che sia difficile spiegare i benefici per l'Italia e per l'Europa di questa opera. Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, buonasera. Buonasera a voi. In collegamento da Lione. Allora, il progetto importante per Italia e Francia. Il prossimo vertice sarà a Torino, se ho ben capito? Sì. Monti ha annunciato che il prossimo vertice sarà a Torino, anche per sottolineare, visto che la Francia ha scelto per questo vertice Lione, per sottolineare appunto l'importanza del collegamento ferroviario tra le due città. Ecco, tra l'altro Hollande e Monti hanno anche discusso di Europa in un vertice molto blindato, ma non mi sembra di aver visto incidenti. No. C'è stato il tentativo di un gruppo di oppositori alla linea ad alta velocità di fare un corteo, ma poi in realtà anche questo non è riuscito. C'è stata in realtà una piccola manifestazione, ma in realtà nessun problema particolare. Dicevo invece dell'incontro, firmati anche altri 5 accordi con il ministro Cancellieri e il suo corrispettivo francese per la cooperazione di polizia, sulla difesa tra Gian Paolo Di Paola e il corrispettivo francese, la roadmap nel settore difesa, istruzione e ricerca, e anche i ministri infrastrutture e trasporti Mario Ciaccia e con il corrispettivo francese hanno firmato gli accordi per la modifica del tunnel stradale del Fréjus e sulla convergenza tarifaria fra questo tunnel e il traforo del Monte Bianco. Di Europa, anche sull'Europa mi sono sembrati molto in linea, in sintonia Hollande e Monti. Sì, ma i rapporti tra i due paesi sono ottimi, anche quelli personali tra il capo del governo italiano e il presidente francese, questo fin da quando Hollande ha assunto la presidenza della Repubblica. C'è una convergenza totale, direi, come hanno detto anche loro in conferenza stampa, sia dal punto di vista delle proposte, sia dal punto di vista dell'azione per appoggiare queste proposte. La posizione è comune sul budget europeo, è comune sull'unione bancaria, è comune sulle tasse finanziarie ed è comune appunto sulla Torino-Lione, dove il capo di Stato francese e il capo del governo italiano hanno ribadito fortemente oggi che è stata di un'opera assolutamente prioritaria e insieme cercheranno di convincere gli altri membri dell'Unione Europea a far sì che nel budget pluriennale dell'Unione si trovi appunto il finanziamento necessario per la contribuzione comunitaria all'opera, e questo consente effettivamente di realizzarlo. Devo dire che Monti ha anche commentato, adesso ne parleremo, l'andamento dello spread, soddisfazione anche da parte di Hollande su come, tra virgolette, la Germania si sta muovendo sulla Grecia? Sì, da parte di ambedue in realtà c'è stata, hanno appunto osservato come in effetti finalmente la Germania abbia cambiato posizione e come finalmente abbia iniziato a capire, almeno la Merkel abbia dato l'impressione di aver iniziato a capire che il salvataggio della Grecia in realtà è un'operazione vantaggiosa per tutti, Germania compresa. Quanto agli spread, alla battuta sugli spread, sì, Presidente Monti ha sottolineato quanto sia appunto dolce, apprezzato questo graduale ribasso degli spread, dicendo però appunto che l'obiettivo è quota 287, l'obiettivo a breve insomma è quota 287, che è esattamente la metà dei 574 punti base che erano quelli tra i titoli decennali italiani e tedeschi di quando lui ha cominciato a governare il paese. ...17:37 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora adesso ci occupiamo della borsa, dello spread, delle dichiarazioni di Mario Monti su questo, però fatemi dare una nota. Allora, ho detto che domani torneremo sul tema delle concessioni balneari, perché questa sera la commissione parlamentare deve valutare o no l'emendamento. Dico solo una cosa. Allora, c'è chi scrive: ma come, lei le mette tutta sui soldi, a me interessa anche chi lo gestisce. Allora, se uno non vuole che lo gestisca un russo, non so perché poi i russi e i cinesi dovrebbero mettersi a gestire i nostri stabilimenti balneari, andrà da un'altra parte. A me quello che interessa è che siano messi in concorrenza. C'è una direttiva Bolkestein famosissima, quella che obbliga ad aprire settori dove non c'è mercato. Quello delle concessioni balneari in Italia è tra i settori considerati meno concorrenziali. Il regime attuale prevede che lo stabilimento balneare ha una concessione di 6 anni che viene rinnovata automaticamente per altri 6, e siamo già a 12 anni. Dopodiché l'incompatibilità è totale con la norma europea. Il governo aveva deciso di far scadere tutte le concessioni entro il 31 dicembre 2015, se no becchiamo pure la multa, come con le quote latte. E invece i relatori di maggioranza hanno presentato un emendamento che congela le concessioni per 30 anni, e qui infatti molti giornali hanno scritto: vincere la lobby dello sdraio. Poi molti dicono: ma insomma, fosse ben gestito. Vi dico due cose. Quando l'agenzia del demanio è andata a verificare 2 anni fa che gli stabilimenti, su 573, 551 erano fuori regola. Per sfruttare la posizione in riva al mare pagavano cifre irrisorie dai 5 ai 70 centesimi al metro quadro. Allora, a fronte di questo, io, senza voler fare di tutto un erba un fascio, la dichiarazione media annua del gestore di stabilimenti balneari è di 13.600 euro l'anno. Okay? A me sembra un po' pochino, soprattutto conoscendo gli stabilimenti balneari in alcune parti del paese. Ultimo aspetto riguarda anche il sud, perché ma vorrebbe dire togliere il lavoro agli italiani. No, non capisco perché. Un conto è chi acquista uno stabilimento balneare, acquista la gestione per guadagnarci, un conto è chi ci mette a lavorare. Se uno stabilimento tira, uno difficilmente cambierà una squadra che vince. Ma in secondo luogo, sapete che soprattutto al sud, ogni volta che c'è un'inchiesta, o spessissimo quando c'è un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia, molti di questi stabilimenti balneari sono, diciamo, in mano a prestanome, molti, alcuni, e dietro c'è l'andrangheta, la camorra e la mafia. Allora, fare gli spocchiosi sull'arrivo di eventuali stranieri, che non li vedo proprio, mi sembra un modo, come sempre, per tutelare posizioni di rendita. Ripeto, se uno ha una merceria, un bar, un ristorante o quant'altro, se sta sul mercato ci sta, e se no chiude, fine. Non è che ha a 30 anni rinnovato demanio pubblico con una posizione tra l'altro di monopolio, perché o vai lì o non vai da altre parti, no? Quando poi gli stabilimenti si comprano, però costano carissimi. Allora mi dovete spiegare come mai costa caro uno stabilimento balneare che rende in media di reddito al gestore 13.600 euro l'anno. Misteri italiani. Parliamo adesso di spread, che è meglio. Con qualunque base volete. Siamo innamorati di Ghetta oggi. Mario Sprafico, direttore di investimenti Schroders Italia, buonasera. Buonasera. Allora, sotto i 300 punti a 292 punti, la borsa chiude con un più 0,40% e bene anche, ma non come venerdì, bene le banche, UniCredit più 2,23, UbiBanca più 1,5, Intesa più 0,90, come la Popolare di Milano. Poi leggermente risalito. Ma insomma, qui pesano due cose: la Grecia che ha annunciato che potrà ricomprarsi parte del suo debito, 10 miliardi, deve comprarne fino a 43 per ottenere gli aiuti internazionali, e la Germania che in una doppia dichiarazione, prima Schäuble, il Falco, venerdì, e poi Angela Merkel in un'intervista nel fine settimana, ha detto: noi tedeschi siamo tra i primi ad avere vantaggi da questo euro, finalmente lo hanno ammesso. E la Grecia non può uscire dall'euro, perché sennò c'è il rischio che finisca l'euro stesso. Pesa di più l'atteggiamento greco o le dichiarazioni tedesche? Sicuramente l'atteggiamento greco. Direi che questa operazione, l'avvio dell'operazione di riacquisto, quindi di buyback dei titoli di Stato greci, sono un po' una parte, un messaggio di conclusione, o meno di un avvio alla fine di questa crisi, perché logicamente si tratta ancora una volta di creare un ulteriore haircut mascherato, cioè in poche parole i vecchi sottoscrittori di bond che hanno subito una ristrutturazione in questo caso vedono consolidare ulteriormente le perdite se aderire a questa operazione. Certamente non vale per chi ha acquistato i bond greci a fini speculativi nelle ultime settimane o negli ultimi mesi, che chiaramente faranno un guadagno su questa operazione, però il messaggio che è stato dato da questo avvio di questa operazione è proprio quello, che ci avviciniamo alla fine di questa crisi greca. Sommiamo un'altra serie anche di elementi, che è una maggiore messaggi di distensione da parte del governo tedesco, che si sta in parte rendendo conto di avere un po' troppo tirato la corda in quest'ultimo anno nei confronti delle crisi, diciamo della crisi dell'Eurozona, non solo per quanto riguarda la Grecia. Sì, ammissione tardiva, ma meglio tardi che mai. In questo senso, Mario Monti a Lione, nel vertice italo-francese di cui parlavamo prima, sullo spread. La giornata di oggi per lo spread è positiva perché siamo scesi sotto il 300 e desidero anche confessare che per me c'è un livello di spread che è di 287 punti base che rappresenta, e spero che sia presto toccato, un punto di particolare significato, perché sarebbe esattamente la metà dei 574 con i quali il nostro percorso è iniziato. Allora Mario Sprafico, è sempre difficile fare previsioni, ma voi venite pagate anche per questo, mettiamola così. Lei ritiene che, allora, io non sto dicendo che adesso abbiamo visto le previsioni sulla crescita economica che non c'è fino a almeno metà del 2013, e quindi crescita, occupazione, consumi sono di là da venire. Però sull'emergenza vera e propria, cioè il rischio tenuta del sistema euro, il rischio che l'Italia non riuscisse a ripagare il suo debito, la corsa a comprare bond anche quando avevano rendimenti negativi, secondo lei possiamo considerare chiuso questo capitolo tra le mosse della Banca Centrale Europea a giugno-luglio, l'accordo europeo, la Germania che si ravvede, oppure balleremo ancora? No, direi che il tema della rottura dell'euro è in parte, secondo me, ormai remoto come timore, anzi direi che siamo proprio all'opposto in questo momento, visto anche l'andamento del cambio dell'euro-dollaro, la dimostrazione è il contrario, anzi oserei dire che forse si era esagerato in passato, e questo basta vedere proprio l'andamento della valuta anche nei periodi di maggiore tensione, come è avvenuto prima dell'estate, dove non aveva mai superato un livello di 1,23 contro dollaro, quindi non erano segnali di scommessa su una rottura dell'euro. Certamente tutto questo dipenderà ancora una volta in primis dalla Germania, perché è verosimile un target come stimato da Monti sotto i 300, 287 punti e anche meglio, perché in queste condizioni è assolutamente verosimile come target, però ripeto ancora una volta non dipende dall'Italia, i nostri conti sono a posto, l'avanzo primario c'era anche prima di quando scoppiò questa crisi e quindi tutta in questo momento il contesto è ancora rivolto alla gestione politica, soprattutto da parte della Germania. Certamente i segnali che arrivano sono incoraggianti e quindi anche incoraggianti nel diminuire quella che è la cosiddetta volatilità e quindi i mercati ballerini ancora per un po' di tempo. Le scadenze sono ancora tante comunque dinanzi a noi, cioè non solo la situazione della Spagna che è ancora molto tesa da un punto di vista soprattutto di fondamentali economici, e poi quello che succederà negli Stati Uniti con questo tema del fiscal cliff che non è sicuramente da sottovalutare. Per cui lei poi ai suoi clienti che dice, vabbè, di non posizionarsi sui dollari in questo momento, perché l'euro, se tanto mi dà tanto, se diciamo, scompare o si allontana l'ipotesi di una non tenuta dell'euro, voi direte altre valute, ma il consiglio qual è? Cioè, bot ancora, BTP? Chiedo perché... Direi proprio di sì, perché c'è ancora spazio sul mercato italiano, anzi direi che in questo momento allungarsi un po' con le scadenze, quindi andare oltre i due anni, c'è ancora una possibilità di guadagno ulteriore. Certamente l'Italia, ma come il resto del mondo, in questo momento è in una fase ancora di estrema incertezza, perché abbiamo segnali positivi come stamattina che sono arrivati dalla Cina, dove ci sono segnali di ripresa dell'industria manifatturiera, ma sicuramente siamo ancora in un contesto molto fluido, quindi c'è ancora grossa incertezza e quindi anche il consiglio è sicuramente investire sui titoli di Stato italiani, ma molta cautela e non farsi prendere, diciamo, dall'euforia nel vedere magari mercati che aprono più 2% al mattino. Ecco, c'è ancora molto da osservare in questi prossimi mesi. D'altro, la dimostrazione di oggi è stata, direi, eclatante. Abbiamo aperto con un mercato effervescente a razzo per poi spegnersi quasi sul finale, insomma. Allora, non vi dico cosa sta arrivando dai gestori degli stabilimenti balneari. Due precisazioni: domani avremo il presidente, se ci conferma appunto l'intervista, dell'associazione di categoria. Allora, attenzione, alcuni scrivono ascoltatore, ho speso 70.000 euro 4 anni fa, 700.000 euro, scusate, 4 anni fa, ipotecando la casa, pago le tasse, mi vogliono portare via tutto. Altri scrivono anche via Facebook, la mia famiglia ha comprato lo stabilimento pochi anni fa, abbiamo investito dei soldi, adesso lo Stato vuole mettere all'asta la concessione e i soldi che ci abbiamo messo chi me ne restituisce. No, un secondo, dobbiamo capirci. Qui non, il governo non ha deciso, per fortuna, e ci mancherebbe, l'esproprio proletario degli stabilimenti balneari. Gli stabilimenti hanno una concessione che viene data dallo Stato perché usano un pezzo di terra italiana, ok? Il demanio. Allora, quello che l'Europa chiede è che venga messa in concorrenza anche questa concessione, cioè non semplicemente che venga rinnovata di 6 anni in 6 anni in automatico. Adesso l'emendamento vuole rinnovare in automatico di 30 anni, ci becchiamo una multa sicura dall'Europa, perché non esiste un settore economico in cui tu in automatico conservi quella che è una concessione, non è un tuo diritto, lo Stato concede. Dopodiché, se uno dovesse fare due conti e dire no, io non ho voglia, lo può vendere, cioè non viene espropriato niente. Se uno ha fatto degli investimenti in uno stabilimento balneare, abbiate pazienza, è un bel giro d'affari, lo metterà sul mercato come qualunque attività commerciale dicendo guarda, io ho speso X, fatturo Y, questi sono i margini, per cui ti chiedo questa cifra. Nessuno sta espropriando gli investimenti dagli stabilimenti balneari, si dice solo è normale pagare da 1,50 euro al metro quadro come concessione allo Stato, cioè a noi tutti? Secondo me no, e comunque l'Europa, al di là di quello che penso io, chiede che vengano messe in concorrenza le licenze, cioè che si possano mettere. Poi se uno non vuole prendere lo stabilimento a Ostia piuttosto che da un'altra parte, resterà l'unica offerta sarà quella di chi già ce l'aveva in concessione, fine. Ma non è che poi ti espropriano, ok? Dovrai vendere, ma dipenderà che valore hai sul mercato, come in qualunque attività economica. Non capisco veramente il problema. La borsa. Di spread abbiamo parlato ampiamente, oggi minor reazioni però sui titoli bancari. Unicredit più 2,20, Ubibanca più 1,5, Intesa più 0,90 come la Pop Milano, Generali più 0,80 come Exor e Mediobanca, Enel più 0,70 come Tods. Il caso di oggi si chiama Mediaset più 6,70%. Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora, partiamo da Mediaset più 6,69%. Diciamo che il titolo ha recuperato rispetto a metà novembre, ha cioè guadagnato il 17%, e orientare gli acquisti, come abbiamo visto nelle ultime sedute, sono soprattutto i report degli analisti che stanno riposizionandosi sul titolo. In particolare quest'oggi c'è un report di JP Morgan, ma al di là del report sono un pochettino le prospettive sulla controllata spagnola che migliorano e che fanno sì che anche, diciamo, Mediaset in Italia, a Milano, guadagni il 6,69%. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non possiamo tornare sugli stabilimenti balneari, ripeto, il disegno di legge sviluppo oggi su questo tema va in commissione, l'Europa boccerà, l'ha fatto capire, l'eventuale proroga automatica a 30 anni delle concessioni balneari previste nell'emendamento. Domani ne parliamo con il Presidente. Non posso continuare a rispondere a chi dice ma allora anche le autostrade, i porti, le ferrovie, insomma, si capisce da solo la differenza. Detto ciò, le autostrade sono in concessione, se poi costa poco quella concessione la si faccia pagare di più. Se non ci sono gli investimenti a fronte della concessione, si chieda alla famiglia Benetton e comunque agli azionisti di fare più investimenti. Ma cosa vuol dire mettere in concorrenza le autostrade, i porti, le linee telefoniche? La telefonia è in piena concorrenza, le ferrovie, è entrate anche in TV Italia, cioè, ma è chiaro che sono investimenti diversi. Comunque torniamo e continuiamo con la borsa. Guido Maurino, tu raccontavi di Mediaset, le banche: Unicredit più 2,22, Ubibanca più 1,5, Intesa più 0,90, Pop Milano più 0,90, Generali più 0,80. Bene, appunto, si avvantaggiano dello spread in netto calo. Fiat leggermente positiva, però poi ha ripiegato meno 0,80%. Prelios. Sì, per quello che riguarda Prelios, più 13,46%. Oggi la società ha annunciato il nuovo amministratore delegato, che si tratta di Sergio Iasi, un'esperienza in varie società immobiliari, l'ultima è quella del gruppo Toti. La società inoltre ha confermato di stare lavorando al piano di rilancio della società immobiliare della Bicocca, un piano di rilancio che dovrebbe essere definito a breve, diciamo entro Natale. Tra i migliori e peggiori in assoluto cito TAS più 50, EMS più 28, Olidata più 7,30, Mediaset appunto ne parlavamo più 6,70, tra i peggiori Unione Alberghi Italiani meno 7,40 e Screen Service meno 7,70, SEAT pagine gialle meno 7,70, anch'essa poco mossi gli altri titoli, Buzzi Unice meno 0,90, ST Microelectronics meno 1,40, Diasori meno 1,60, Fiat già il nostro GR vi ha aggiornato, a fronte di un calo medio, il dato di pochi minuti fa, del 20% nelle immatricolazioni a novembre, Fiat ha fatto meno 16,5, quindi è andata pur in negativo, ma un po' meglio del mercato, ecco perché la quota torna al 29,7%. Nel ringraziare Guido Maurino, saluto invece un suo collega che spesso ci accompagna e ci racconta la borsa, ma oggi è qui per parlarci di chi in borsa non è andato, e mi riferisco a SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Milano. Ciao Condina, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, oggi la provincia di Milano ha detto che comunque venderà il suo 14,5% e Pisapia doveva riferire il sindaco in consiglio comunale. Ciao. Sì, partiamo da Pisapia, ha iniziato, diciamo, ha concluso da poco la sua relazione in consiglio comunale, è stato un attacco diretto al fondo F2Infa, dal momento che Pisapia ha sottolineato come l'IPO è fallita per una conflittualità a senso unico. Il sindaco di Milano ha anche sottolineato, diciamo, cose anche abbastanza già dette, il fatto che c'era forte apprezzamento da parte degli investitori italiani ed esteri per l'IPO. E soprattutto una cosa nuova, ha detto che dopo i primi giorni c'era già un 35% di sottoscrizioni, poi sono arrivati addirittura dei recessi dopo l'aumento, diciamo, l'intensificarsi del conflitto con F2I. Per quanto riguarda invece la questione della provincia, sì, stamattina fondamentalmente... Quindi lì, scusami se ti interrompo, ma Pisapia ha detto, se posso forzare il concetto, sta andando bene il collocamento di SEA, poi l'opera di ostruzione di F2I ha portato anche ai recessi, cioè assolutamente, sì, ha detto di ostruzionismo, scusate. Sì, fondamentalmente ha costretto, diciamo, la SEA a inserire nel suo prospetto informativo un chiaro riferimento esplicito alla conflittualità tra i soci, e da lì sostiene appunto Pisapia, gli investitori esteri sono scappati, per dirla chiaramente. Per quanto riguarda invece la decisione della provincia, viene messo in asta il 14,5% della SEA, qui è una decisione forzata perché sennò la provincia rischia di sforare il patto di stabilità e di subire ulteriori multe. Quello che fa riflettere è il prezzo. Guardiamo i numeri, l'IPO di SEA era in una forchetta tra 3,2 euro per azione e 4,3 euro per azione, la provincia offre tutto a 4,4 euro, quindi sopra la forchetta. Il mercato chiaramente ha detto, dopo il fallimento dell'IPO, che SEA non vale neanche 3,2 euro per azione. Cosa significa questo? Significa che l'eventuale acquirente dovrà pagare anche un premio di maggioranza, e qui l'unico che può in pratica diventare una maggioranza di blocco, quindi bloccare eventuali decisioni in assemblea straordinaria, è Gamberale, che oggi detiene il 29 e salirebbe al 43. Quindi mi sembra abbastanza un assist per F2I, sempre che F2I abbia voglia comunque di restare in questa partita. Pianeta Giovani, dunque, la ricerca The Next New Normal, uno sguardo sulla generazione dei cosiddetti millennial nel mondo, 15.000 interviste di una generazione che, dopo quella dei baby boomers, chi è nato, diciamo, dal 62 al 69-70, quindi incluso il sottoscritto, è la generazione più numerosa, sono 2 miliardi e 400 mila persone al mondo, di cui 12 milioni in Italia, pari al 20% della popolazione. E allora parliamo, con dati alla mano e non con luoghi comuni e stereotipi, di questa generazione dei cosiddetti, appunto, millennials. Vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Goodbye. Antonio Campo Dall'Orto, vicepresidente esecutivo di Viacom International Media Networks, buonasera. Buonasera a voi. Allora, lei ce l'aveva annunciata un anno fa da Capri, questa ricerca è uscita. Beh, per riprendere il titolo della canzone di Caparezza, visto che lei ha fatto moltissimi anni in MTV, no? Dalla vostra ricerca emerge che molti se ne vorrebbero andare. A me è impressionato il fatto che 7 giovani italiani su 10 pensano che sarebbe meglio espatriare per avere un futuro migliore. Il 70%, pensate che in Grecia, che non è si stia proprio bene adesso, sono solo il 47%, cioè 5 su 10 nemmeno. In Spagna sono 36%, e in Gran Bretagna il 25%, in Gran Bretagna il 33%, in Germania e Francia il 25%. L'altra cosa che mi ha impressionato, Campo Dall'Orto, però, è anche quelli che sono, quanti giovani sono convinti che lavorando duramente si possono raggiungere i propri obiettivi. Assolutamente, ma difatti lei ha detto bene prima, è stata una ricerca molto molto estesa e molto accurata, tanto che 15.000 persone coinvolte in 24 paesi, e anche a noi ha fatto così, insomma. Non dico che fosse, che abbia sorpreso, perché i dati poi negli anni si sono via consolidati, ma quello che esce fuori è molto chiaro. Da un lato c'è una generazione positiva, nonostante il contesto che sta vivendo, una generazione che soprattutto in Italia, questo è uno dei luoghi comuni che secondo me viene ulteriormente meno, sono disposti ad adattarsi più che negli altri paesi per necessità. Cioè sono più disposti ad adattarsi rispetto a altri giovani. Assolutamente, questo dato è molto più elevato che negli altri paesi, ripeto, probabilmente anche perché negli altri paesi non hanno necessità di farlo. E questa cosa, sommata al fatto che in Italia più che negli altri paesi uno è convinto di farcela con i propri mezzi, se uno mette insieme queste cose, poi purtroppo, e questo probabilmente è una cosa che avremmo preferito non vedere, ma l'Italia su tutti i paesi che abbiamo analizzato è il paese in cui c'è una maggiore quantità di persone che pensano che per essere felici, che vuol dire realizzarsi nel lavoro anche, è più facile farlo pensando di andare a vivere all'estero. Però appunto non è una scelta, come posso dire, remissiva, è una scelta della generazione che dice io ce la posso fare, qui non ci sono le condizioni di potercela fare, preferisco pensare di andare fuori. Tra l'altro ai nostri giovani sono anche quelli tra i più stressati, dopo Cina, Grecia, Giappone arriva l'Italia. Per gli infelici, anche qui lei lo ricordava, il tasso di infelicità è alto, siamo al quarto posto dopo Giappone e Singapore. Io Singapore non capisco perché un giovane a Singapore debba essere infelice, comunque. E Egitto, anche i giovani greci sono meno infelici dei nostri, questo vabbè. Sarà per altri motivi. Il tasso di orgoglio nazionale è basso, è al 70% contro i giovani americani al 90%, i brasiliani all'84%, i francesi all'82%. C'è una cosa interessante, Campo Dall'Orto, sull'idea di realizzarsi, cioè della realizzazione, dell'avere successo. Lei ha detto questi giovani hanno un concetto molto diverso rispetto a quello degli anni 80. Mi chiarisce perché? Sì, perché oggi la felicità che passa attraverso l'autorizzazione, che quindi identifica in questo momento un modello di successo, non è legata per esempio al consumo o ai soldi. Questo valore, che era molto alto fino a 15 anni fa, si è abbassato molto. Oggi la realizzazione avviene attraverso il fatto di trovare per esempio il lavoro che piace, il fatto di trovare e riuscire a formare una famiglia, che sono cose che appunto da un lato, al di là dei giudizi che sembrano anche apprezzabili queste cose, però spostano l'asse su una soddisfazione che poi se non si vede realizzata nel proprio paese, poi causa stress. E perché lei citava i dati dello stress sono così elevati in Italia? Perché non solo è un paese ad alta disoccupazione, e teniamo conto che la preoccupazione numero uno, e questa a livello mondiale c'è ovunque, è il lavoro. Nel nostro paese, a differenza di altri, si ha la sensazione che la situazione migliorerà con fatica per un fatto di una società più bloccata che in altri luoghi. Infatti, se posso pescare una cosa che preoccupa di differenza tra l'Italia e gli altri paesi, non è tanto la situazione contingente, in alcuni paesi è ancora peggiore, ma è la situazione più legata al contesto complessivo della società, cioè la sensazione che qui opportunità ce ne saranno poche, per cui vale la pena andare fuori, perché la società è bloccata, non è una società in crisi contingente, ma è una società che è strutturalmente governata dalle... Quindi non c'è un problema di crisi economica di questi anni, ma è una società che non è un paese che non è per giovani, in cui adesso arriviamo anche al tema del merito e quant'altro, perché e i giovani la vedono come bloccata al di là della crisi, cioè anche quando ripartirà l'economia, se ho ben capito il suo ragionamento, dico tanto qui si andrà avanti in altri... Mi dica. No, no, appunto, è proprio questo il tema. Il tema è che coloro che vivono in Italia non hanno un problema col paese dal punto di vista della crisi, o di tradizioni, ma è che hanno la sensazione che, lei citava bene la parola merito, in questo paese non sia una premessa per il lavoro. E quando, tenga conto anche che grazie a internet si è formata effettivamente una società globale dal punto di vista dei ragazzi, e quindi capire che loro sono svantaggiate rispetto a loro simili con cui comunicano quotidianamente via internet per il semplice fatto che la società non gli garantisce le stesse condizioni di partenza causa frustrazione. Allora le leggo due cose diametralmente opposte. Una riguarda il Ministero del Tesoro, che oggi ha messo a disposizione 34 posti di stage per fare anche un'esperienza interessante, monitoraggio delle entrate tributarie, offre 7 euro al giorno, il che vuol dire 1 euro all'ora, avvertendo pure che queste somme saranno erogate ai tirocinanti, agli stagisti, compatibilmente con le disponibilità nei relativi capitoli di bilancio. Insomma, se ci saranno sono 7 euro al giorno, se no nemmeno quelli. E le domande saranno accettate fino a venerdì. L'altra riguarda invece il presidente dell'antitrust Giovanni Pitruzzella, il quale spesso ricorda come è necessario che qualsiasi selezione sia imparziale e trasparente, e però, tra i vincitori, i cinque vincitori del concorso per cinque funzionari a tempo determinato per 4 anni bandito dall'antitrust, ce n'è uno che si chiama Marco Lubue. È al 4º posto, è il più giovane, ha 28 anni, è già avvocato, è nato a Palermo il 9 maggio dell'84. C'è qualche però particolarità. Ha fatto il suo praticantato e il tirocinio nello studio legale di Pitruzzella, del presidente dell'antitrust che ha indetto il concorso. E va bene. Però dice, no, ma ha fatto solo il praticantato, null'altro. Lo conosco perché sono stato suo tutor nel ciclo di studi. E vabbè, conosco anche il padre con il quale ho fatto per un anno circa delle regate. E vabbè, siamo ancora nei limiti. Peccato che però il presidente dell'antitrust con il padre di Marco Lubue abbia nel marzo 2010 fondato una società battezzata Vele Natura, si erano divisi le quote, intestando anche la barca da regata. Poi ha ceduto la quota della società, ha rinunciato anche al 25% di un'altra società, ma insomma è lunghissima la storia. Il problema è che il rapporto, poi il sospetto che tra Marco Lubue, che tra l'altro è membro del CSM siciliano, e il presidente dell'antitrust Pitruzzella vi sia un rapporto così stretto per cui il figlio poi passa uno dei concorsi per 5 posti. Campo dall'orto, sono queste le notizie che disorientano e in qualche modo creano sconforto. Assolutamente, poi al di là del conoscere il caso specifico, ma ce ne sono tantissimi in Italia. Sono due casi in cui lei ha raccontato bene cosa significhi essere vittime della conservazione, cioè della difesa di posizioni consolidate da parte della società degli adulti, che o difendendo se stessa, difendendo persone che conosce, poi non lascia spazio a concetti quali il merito. E questa cosa qui è quello che fa sì che le persone dicano: io non voglio abbandonare il mio paese perché non mi piace, ma voglio abbandonare il mio paese perché voglio provare a misurarmi con la realtà, con la vita, con le sfide professionali. E per questo che se non si riesce in maniera molto incisiva ad attaccare queste cose, i rimedi saranno solo marginali e quindi questa tendenza non verrà mai cambiata. Beh, la cifra è impressionante rispetto agli altri paesi. Da noi il 70% ritiene di dover andare all'estero, ripeto, perfino in Grecia sono solo il 46%, in Germania, in Francia il 25%. Mi sa che altro che choosy, hanno capito what to choose questi giovani. Comunque, grazie Antonio Campo Dall'Orto, che è appunto vicepresidente di Viacom International, una ricerca enorme, 15.000 casi in tutto il mondo. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.